Christian Records. Christian Records. Ok. Questa è una traccia, una piccola traccia, una piccola prova. L'unica donna che amo, l'unica donna che riuscirò ad amare veramente tutta la mia vita. Di questo ne sono anche fiero. Spero che questa canzone vada dritta nel tuo cuore per ridarti il buon umore, per non farti scordare che sei la regina del mio cuore, la regina del mio cuore, sì, la regina del mio cuore. Spero che questa canzone vada dritta nel tuo cuore per ridarti il buon umore, per non farti scordare che sei la regina del mio cuore, la regina del mio cuore, sì. Regina del mio cuore, papà scrive una canzone in onore della donna per cui prova vero amore. Ti ho sempre dentro al petto, pure in quei giorni tristi dentro al ghetto. Ringrazierò tua madre per averti concepito. Non è colpa mia se non hai il mianello al dito. Quando sei nata, una condanna mi è arrivata. Papà se l'è scontata, ma giuro non ti ha mai abbandonata. Dopo io e tua madre abbiamo litigato per una donna che papà in passato ha poco frequentato. Ma giuro non ti ho mai scordato, ti tengo sempre in mente, ti cerco tra la gente, sei il mio sogno ricorrente, il mio vero obiettivo, sei la sola forza che mi tiene ancora vivo. Senza mollare, spero presto di poterti riabbracciare per non doverti più lasciare. Questo è per te, eh? Ok. Spero che questa canzone vada dritta nel tuo cuore per ridarti il buon umore, per non farti scordare che sei la regina del mio cuore, la regina del mio cuore, ok? Spero che questa canzone vada dritta nel suo cuore per ridarti il buon umore, per non fargli scordare che è la regina del mio cuore, la regina del mio cuore. Gli anni passano e mi chiedo dove sei, cosa fai. In futuro dovrò chiedermi con chi sei, dove andrai, lo giuro. Farò soltanto del mio meglio per darti il mio sostegno, per riuscire a farti stare meglio. Appena salti dalla culla, cammina sempre a testa alta e non aver paura di nulla, anche se a volte questa vita si fa buia. Se vuoi vedere se papà ti sta vicino, tu chiama sul telefonino. Ho bisogno del tuo amore, per te che continuo. Perdonami per non aver mai visto il tuo primo dentino. Non ti ho portato in giro con un passeggino. Ti prego quando cresci restami vicino. Recupereremo il tempo perduto, soldi di non averti cresciuto. Ma credimi, non sono io che l'ho voluto. Cercherò di esserci nella peggior situazione.